questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, saluto subito Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ciao, come va? Domina chi c'è? C'è il signor Cruciani. Impegnato a mangiare un panino col prosciutto. Ciao Pier, sto mangiando un panino. Non mi disturbate, panino che sto a mangiare. Prosciutto e brie. Ecco. Capito? A questo mi costringe Genta, capito? Ah. No, però devo dire che l'immagine. Sentite il rumore? Il rumore della bocca che mastica. Tra l'altro siamo di fronte a un documento esclusivo, no? Le grandi inchieste di tutti i convocati, perché cioè? è uno dei rarissimi momenti del verità. Signor Cruciani che mangia. Ah, sì, per quello. Sì. Nutrizionista. La situazione Cruciani è paradossale, certo, tipo brie, quella Cruciani, di il brie, ma lo so, ho trovato solo questo, purtroppo ogni tanto mi devo piegare alle esigenze della cucina, come dire, popolare della cucina. Il primo che dice Cruciani sono sesso estremo e brie. Sì, adesso il primo che dice chi se ne frega ha ragione. Ok. Primo che dice chi se ne frega. Io ho solo scrive. Una felicità questo fine settimana calcistico. Vivo solo di un sogno, cioè? Che è quello di vedere il Liverpool campione d'Inghilterra. Ah, io beh. Ho solo questo obiettivo, per cui godo come un matto. E anche l'Atletico Madrid, dai. No, non me ne frega niente, quello che me frega l'Atletico Madrid. No, il Liverpool primo in classifica dopo tanti anni, godo come un riccio, è l'unica mia soddisfazione di questo non weekend, ce la farà forse, mai. Forse dell'anno. Non ce la farà mai il Liverpool, no, speriamo. Vince il campionato d'Inghilterra. Ha messo bene, ha beccato il giro giusto, cioè sì. Ha perso col Palace, ha più due, il City ha perso due punti a Londra con l'Arsenal, in questo momento sono due punti persi, attenzione. Poi certo, una trasmissione che vuole fare ascolti inizia a parlare del Liverpool, no? Sì, una trasmissione certo. Che vuole fare ascolti, una trasmissione di grande diffusione popolare. Nel Merseyside, eh? Allora, piantatelo un attimo, quello che volevo dire, mi sembra che i due temi siano chiari, no? Se è quasi inutile sottolineare, pleonastico, 800240024, perché nello sport la sconfitta è fisiologica, secondo me. Così come è fisiologico l'errore, il problema è che la soglia di tolleranza è pari a zero. Per la sconfitta. E prova a far scattare Pandev. Riceve molto bene il pallone, ottimo il suggerimento per Mertens. Lo stop di petto. Prova ad evitare il ritorno dell'avversario. Mertens, il destro! La rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Sei un fenomeno! Entri e segni! Come i fuoriclasse! Come i più grandi! Trilli Mertens! Mette in ghiaccio la partita! 2-0 per noi! Soltanto pochi secondi di match! E Mertens mette il sigillo su questa gara contro la Juventus! Grande Napoli! 2-0 contro quelli che si sentono imbattibili. 2-0 per il Napoli con un gran gol di Trilli Mertens. Non perdeva da 22 partite, lo sapete tutti. Mancavano due dei quattro giocatori più importanti. La Juventus ha segnato, prima di riserva aveva segnato per 43 partite sì. consecutive. Risultato segnato, fisiologico, partita no? scontata. Ho giocato uno primo tempo, uno risultato finale. Quanto hai vinto? Ho vinto, non so, 200, poco ho giocato, ho vinto 250, 270 euro. Ti pare poco? No, poco, dai ragazzi, 250, roba da morti di fame, però... Dipende quanto hai giocato. Sì, ho giocato poco, però uno primo tempo, uno secondo tempo, ma è chiaro, era tutto previsto, scontato, segnato, io ero in affanno da un po' di tempo, Napoli che ha giocato una partita... No, una partita quella che doveva giocare, anche se insomma non cambia granché per il Napoli, che secondo non arriverà mai. Comunque ha giocato la partita giusta, sbagliando poco in difesa rispetto all'altra volta, ma soprattutto la Juventus sul Furia. Dov'eri ieri, Pier? Che non ti ho seguito nelle tue parole. Era a Sassuolo, cercando di capire che se tristezza. Dava rigore o no. Anche tu sei stato consultato dall'arbitro? Sì, sì, io ci sono state le consultazioni. Siamo scesi e alla fine. E poi siete saliti al Quirinale. Siamo venuti a un accordo, sì. Siete saliti al Quirinale. Però, come la sconfitta, sapete benissimo che anche l'errore non è tollerato. Secondo me l'arbitro non voleva fischiare il rigore e l'arbitro dietro la porta che ha parlato di rigore, ma secondo me non sono capiti. E poi niente, ha chiesto a Sansone di dire la verità, di essere onesto, Però noi normale che siamo, eravamo un po' incazzati, perché non si può chiedere ai giocatori chi gioca la salvezza di chiedere se c'è rigore o no. Ma lui è stato anche onesto, ha detto no, ma ho scivolato, ma lui mi ha toccato la maglia. E giustamente l'arbitro mi ha dato rigore, perché io dico con onestà davanti alla TV, l'ho toccato, però non l'ho tirato la maglia. Lui ha scivolato e si vede bene. E quindi secondo me l'arbitro... Quindi Sansone ha ammesso di essere scivolato? No, lui ha detto sì, ma mi ha toccato la maglia e dopo ho scivolato. E secondo me era chiaro, e poi l'arbitro ha detto va bene, allora non è rigore, ma è stato un po', sì, un problema. Questo per te nell'intervallo. Beh, oggi sono tranquilli gli ascoltatori, basta truffe arbitrali, moviola in campo, poi uno che mi scrive la sua Juve, non so perché è mia, è una bufala, facile essere primi di niente, molto imitata la signora, pure perché non andate in vacanza per 20 anni, poi vabbè gli insulti tralasciamo, eccetera. No, gli insulti magari non li tralasciamo. Il tuo Nottingham Forest... E la Notting. Tua che stai dicendo? No, boh, sta delirando. È ancora rimasto da Rizzoli di ieri, ancora un po' stordito. No, da Rizzoli, no, di ieri. Rizzoli di ieri. A un certo punto c'è un momento di enorme comicità, perché comunque il panico del telecronista è quello di non capire nulla di quello che sta succedendo, ovviamente. Quindi, chiaramente ho vissuto un sì, minuto di panico. Anche tu, poi, nel panico come certo Rizzoli. Punto, ma no, a un certo punto ci siamo guardati, io e Zancan, collega di Sky, che era sì, di Scindigallina, sì, e ci siamo quasi messi a ridere, nel senso che era una cosa talmente assurda, talmente priva di qualsiasi logica, di qualsiasi indicazione per il pubblico, cioè, che alla fine, insomma... No, io dico una cosa, l'ho detto anche a Carlo prima, non è che sia un appassionato di moviola, anche se penso che il calcio è rimasto l'unico fenomeno sociale, ormai si scoprono gli assassini, si scoprono i ladri, si scopre tutto attraverso le telecamere. Vabbè, il calcio e ladro è un delitto. No, ma dire, anche altre cose, anche chi, come dire, anche le cose minime si scoprono grazie alle telecamere che sì, sono presenti nella nostra società ovunque. Facciamo il calcio è rimasto l'unico pezzo di società dove le telecamere sono vietate per legge, per così, per decreto blatteriano. Però il punto fondamentale è un altro. E invece di quelle scene pietose di ieri, dove l'arbitro addirittura coinvolge un giocatore che poi incredibilmente è onesto in questo caso, perché la titubanza di Sansone ha condizionato l'arbitro, almeno così si capisce, avesse detto no, mi ha spinto eccetera, avrebbe confermato la decisione. Invece di queste buffonate irripetibili, perché in questo caso Sansone ha avuto un momento di, come dire, di sincerità, nel 99% dei casi un altro giocatore che lotta per la salvezza gli avrebbe detto beh guarda, mi ha spinto, punto e basta. Allora, invece di queste buffonate, allora quei 5 minuti spendiamoli, se dobbiamo perdere 5 minuti come ha perso Rizzoli, almeno spendiamoli per una decisione che magari non sarebbe arrivata, sarebbe stata confermata, perché la moviola non avrebbe potuto dire nulla in realtà in questo caso, perché che quindi? Cos'è? Una spinta, una mano appoggiata, quindi è meglio l'utilità? Introdurre, io ripeto, la grande proposta di tutti i convocati, come nel football americano, due possibilità a partita per l'allenatore avversario e per l'allenatore. Instant replay due volte a partita, punto e basta. No, questa proposta tua, perché io mi dissocio. Proposta cioè, mia. A me non rugby, piace. Ormai lo fanno anche i rugby, aspetta. Ragazzi. Sì, I sport più tradizionali del mondo lo fanno. Adesso io voglio dire, sai quanto mi costa dar ragione al signor Cruciani? Siamo arrivati a un punto nel quale, insomma, dai, non... È una roba assurda. Anche quanto perché... ci siamo arrivati, quante volte ci siamo arrivati a memoria d'uomo a questo punto? Un milione nelle ultime tre stagioni. Piano. Sì, ma c'è il progresso, c'è la tecnologia, capito, andiamo avanti. Sì, ma il progresso e la tecnologia ci sono da un po'. L'unica cosa che non capisco, perché cioè, secondo me la pezza è stata molto peggiore dell'eventuale buco. Cioè la vera cosa insopportabile sono 4 minuti e 37 secondi di gioco fermo. Non tanto il fatto che un arbitro con un giocatore come chiunque altro può commettere un errore. Ma l'arbitro non può chiamare in causa un giocatore, in ogni caso, no, è una follia, dai, su. Non può chiamare in causa un giocatore, anche perché il giocatore ha tutti i diritti anche di mentire in quella situazione, perché non ma in non quel caso ha mentito a metà, cioè gli ha detto anche lui quello che sì, sono un po' almeno da quello che dice Benatia, no, cioè se poi bisogna vedere cosa gli ha chiesto, t'ha spinto, t'ha sgambettato, perché probabilmente quella l'arbitro mano era vista... incerto, punto e basta, nell'incertezza il rigore non lo devi dare, evidentemente. Benissimo. Se era incerto non lo doveva dare. Benissimo, riprende il gioco dopo 8 secondi. Per chi non avesse visto l'azione, c'è una cosa che è comica, cioè che quell'azione lì nasce da un tocco di Rizzoli che di fatto è un assist, sì, ovviamente involontario, no? Sai quando l'arbitro viene colpito dal pallone, quindi c'è questo ulteriore elemento psicanalitico. Per Rizzoli innesca involontariamente il contropiede del Sassuolo, poi non dà il rigore, poi viene richiamato, poi fa 4 minuti e 37 di chiacchiere, tricche e pallacche, e alla fine alla fine prende la decisione mistero... che era preso all'inizio, sì, traffico. Tutti convocati. E poi presidente, non si offenderà, a tutti e due, io e lei, mi pare che la Fiorentina ci piaccia molto e ce la mangiamo a pranzo e a cena, no? Sì, sentiamo le grandi inchieste di Tiki Taka, il nutrizionista Cruciani, eccolo qua, il nutrizionista Cruciani ci dica, non ingrassa. Sei tu che sei andato sul terreno del peso, cioè se uno mangiasse la Fiorentina due volte proteine, per cui zero. Carne rossa zero, presidente, lei è come me, mi sa che è per il carboidrato, eh? Noi siamo. Io pure sono per il carboidrato. Noi dobbiamo fare una crociata per i paffutelli, sennò qui ci criticano troppo. Dai, non vogliamo, presidente. Vabbè, per la cronaca, la cronaca, il panino è finito. È finito il panino. Se l'ha ingoiato. Perché anche Cruciani ha uno stomaco oltre che un cuore. Tu stai zitto, che dopo Sassuolo-Roma, sicuramente a Sassuolo lì ti sarei dato da fare. No, ma ho fatto una cena sabato sera di altissimo livello. In quel di Sassuolo, Cesare. E dintorni, Cesare, mi dia una mano lei, Cesare. Però prima di Cesare, voglio dirti una cosa: c'è un mistero Rizzoli, perché che è amico, molto amico di Cesare, vero? Molto, gli piace molto. Gli piace molto. Stasera sarà divertente. Okay? Cesare lo distruggerà come al solito e che dirà che non è in grado di andare ai mondiali. Però Rizzoli incredibilmente ha commesso degli errori incredibili quest'anno, o comunque ha avuto delle incertezze, delle cose clamorose. Quando va a arbitrare delle partite all'estero è perfetto, cioè questo è veramente un mistero, cioè io non ricordo una partita, eppure ne ha arbitrate di importanti, lo credo qualche, sì, una finale di qualcosa. Poi sarà l'arbitro italiano ai mondiali, quindi no, vuol dire un arbitro considerato, sì, dalla, cosa vuol dire perfetta, Giuseppe? Non mi ricordo un errore così degli errori come ha commesso quest'anno così clamorosi in partite arbitrate da Rizzoli a livello internazionale, non lo so, evidentemente quando, sì, è in Italia se parli con Wenger per Arsenal Bayern di febbraio, vabbè, non se lo ricorda nessuno, dai, su, parla con Wenger, non se lo ricorda nessuno, ha ucciso, no. Non ricorda nessuno quelli dell'Arsenal, ma non ci sono gli episodi clamorosi, dico, ci sarà stata una direzione arbitrale che non è piaciuta, ma non ci sono episodi clamorosi. Come a livello internazionale di Rizzoli, no? A livello internazionale, comunque non a livello internazionale, non te lo ricorderai, ma quello è stato abbastanza clamoroso, quell'arbitraggio, l'Arsenal si era lamentato, vabbè, duramente. Andiamo avanti, su. Signor Cruciani è del Liverpool, quindi lì stava guardando. Io sono grandissimo tifoso del Liverpool. Diventato tifoso del Liverpool, devo dire la verità, devo ammettere la tragica verità. Ero a scuola a Roma, in una classe totalmente di tifosi della Roma, tutti della Roma, tranne io e una donna che però non contava, insomma. Non contava perché non contava, poi ha avuto non contava perché... Non contava perché non era tifoso. 700 donne del, no, signor, no, 700 sono quelle del tuo amico Cassano. No, sono di più. No, allora, nel libro 700, poi saranno aumentate dopo. Come disse Antonio, in piena tempesta, perché erano state rubate le bozze del libro pubblicate da un giornale, e quindi insomma, poi Carolina aveva tipo 19 anni in quel momento. Io gli chiesi se era turbato da questa cosa. Mi dispiace, sono uscite le bozze, ma Carolina che dice? Che deve dire? Ci siamo pure tenuti bassi. Ecco, questa era stata la. Però ufficialmente era 700. Comunque, al di là di questo, mi ricordo che divenni tifoso del Liverpool, grandissimo tifoso del Liverpool, di cui ho magliette, gadgets vari che ho accumulato negli anni e che tengo adesso sotto in qualche scantinato, perché tu lo sai, caro Pier, una, certo, una, certo, classe, certo, di romanisti. Vidi la finale di Coppa dei Campioni Liverpool-Roma con tutti i miei compagni di classe all'epoca, tutti in prima fila, e io, amico, vabbè, chiaro esempio, vabbè, di buffaggio. Secondo te chi ti favo? Però quella ti sera, posso dire, ti quella posso sera dire, del 30 maggio dell'83, che anno era? Sì. Vabbè, ma è legittimo, chi ti favo secondo te? Ma mica peccato, perché ti dici, confesso, dire, siamo al top, che il Liverpool è veramente una squadra affascinante, e tanto per fare un esempio, se Bironella, che quella finale lì l'ha persa, sì, e che quindi avrebbe tutti i motivi per detestare, certo, profondamente il Liverpool, per esempio, insomma, non è immune al fascino dei Reds, no? Cioè, quindi poi penso che non sia un segreto di faccia, cioè, è una squadra che gli piace, è una squadra che poi negli ultimi anni è diventata anche molto letteraria, proprio perché ha vinto pochissimo, se non delle coppe proprio con Benitez, ma insomma a livello di campionato sono cioè così delle coppe, una Champions poi League, Anfield cosa vuoi luogo, che sia? Anfield è un luogo veramente mistico, cioè. Eh sì, ecco, cosa sì, vuoi che sia una Champions League? Cesare, allora mi fate parlare con Cesare, sì, buongiorno. Cesare, il signor Cesare. Buongiorno. Volevo fare due domande, ma la seconda era il dottor Cruciani, invece diventa la prima la dottor Cruciani. Vabbè, l'ordine non importa, dica. Arguto giornalista, lo sento sempre sulla zanzara, però tutti hanno un difetto, Cruciani è laziale, l'abbiamo imparato. E volevo chiedere, io nell'84 ero felicissimo perché la Lazio retrocedeva in Serie B, noi comunque eravamo in finale in Coppa dei Campioni, e volevo chiedere se con tutti i tifosi che avete, visto che adesso la Roma ha un proprio stadio, ce l'avrà forse, eventualmente. Sì, speriamo, io penso sempre anch'io. Positivo. Se l'avrà l'Olimpico, lasciamo il rugby, l'Atletica, se ad esempio la Lazio potrebbe trasferirsi, che ne so, una palazzina di Terbo, perché mi sembra che con i tifosi che ha sia più che sufficiente, probabilmente. Vabbè, comunque questa siamo alle diatribe tra tifosi, non ci trovo niente di peccato. Sono curioso perché invece volevo capire la provenienza geografica, mi sembra emiliano il signor Cesare. Sì, sono romanista dai tempi del povero Giuliano Taccora, quindi dal 66-67, quindi sono nato. Vabbè, comunque. Ognuno nasce com'è, no? Roma e Lazio, vale per tutti. No, ma a parte tutto, insomma, quella è una battuta, Cruciani come un grande giornalista, anche se razziale. No, volevo chiedere al dottor Genta, vedo sempre che voi dite, è una specie di mantra, è un campionato scarso, la Juve sì è una grande squadra in Italia, ma in Europa no. È vero, è uscita malissimo con Galatasaray, con Copenaghen, niente da dire. Mica però, poco. Non è poco, però nelle due partite con Real Madrid se l'è giocata alla pari. Sì, io va bene, ma Cesare se l'è giocata alla pari, però nel contesto di un girone semplice è uscita e quello è stato un grande fallimento. Poi io, campionato scarso o no, è una diatriba che mi appassiona fino a un certo punto. Luca, L'Aquila. Buongiorno. Io sono tifoso della Lazio da 47 anni. Sì. E vorrei, se è possibile, denunciare quello che di vergognoso sta accadendo nella capitale nei confronti del presidente della società. L'abbiamo fatto diverse volte, forse non tutti, perché le cose stanno sotto gli occhi di tutti, i meriti del presidente stanno sotto gli occhi di tutti, i demeriti no, nessuno li capisce in realtà. Lo Tito ha vinto più del Napoli di De Laurentiis, sì, più della Fiorentina di Della Valle, più della Roma degli americani. Sì, però guardi, ha risanato, Luca, un settore giovanile. Siamo d'accordo, sono tutte cose che abbiamo detto un sacco di volte, infatti io continuo a non capirle. Qualcuno non sopporta Lo Tito fisicamente perché non rappresenta la Lazio per vari motivi, perché non dà troppo spago a quelli della curva, insomma son tutti motivi, l'abbiamo già detto un sacco di volte dicendo appunto queste cosa che lei sottolinea, però non è che ne veniamo a capo in questa maniera. C'è chi continua a scrivere, ma sparlate la vittoria del Napoli, parliamo della vittoria del Napoli, l'abbiamo fatto, Napoli ha giocato una grandissima partita, il problema è che il Napoli gioca delle grandissime partite una volta ogni tanto, un po' a intermittenza. Sì, il Napoli è una grande squadra con le grandi, mediamente, insomma una squadra da coppe. Però è uscito. L'Europa League non ci ha creduto come forse avrebbe dovuto, ma è una squadra da grandi notti, è una squadra che ha vinto dominando la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Roma, è una squadra che ha vinto con la Roma in casa, anche se sicuramente in campionato non è stata una partita eccezionale, però comunque ha vinto, è una squadra che però di contro ha perso tanti punti con le piccole, sì, e quindi io dico la verità, non sono molto, non mi sono giocato quindi uno al primo tempo e al secondo come Cruciani, però non sono sorpreso dal risultato di ieri, neanche sì, io. Ma quindi Giuseppe ha ragione Conte quando dice se non vince la Coppa Italia Benitez ha fallito la stagione? Beh, un po' sì, ha ragione. Se uno valuta una stagione dal punto di vista dei risultati, in Italia siamo abituati a questo, già vincesse la Coppa Italia e arrivasse terzo, è sempre meno di quello che ha fatto Mazzarri, che in anni diversi ha fatto secondo e Coppa Italia. Io mi aspettavo di più dal Napoli, secondo me è una squadra straordinaria, a parte forse qualche innesto necessario in difesa, ma insomma non scordiamoci che ieri hanno fatto due gol molto belli, soprattutto il secondo, due giocatori che sono stati erano due incognite all'inizio dell'anno, cioè Callejon e Mertens, e invece sono i migliori due grandissimi Napoli. Acquisti, soprattutto il primo, ma anche il secondo, diciamo la verità, cioè chi è che avrebbe scommesso sul fatto che Mertens fosse, no? Sì. Si sarebbe dimostrato un giocatore di quel tipo. Comunque per la cronaca gli hanno pagati non poco, perché un'altra delle polemiche di contorno a questa, partita, gli hanno pagati poco, dopo, poco sopra i 10, dai, intorno ai 12-13, per giocatori del genere che sono anche giovani ci sta anche un investimento, hanno puntato su questi giocatori qua, ci sta un... ma dico bravi, infatti sbaglia De Laurentiis a fare questa polemica sugli investimenti, certo che non sbaglia, capisco cosa vuol dire, anche lui li ha fatti gli investimenti, ne ha fatti tanti in questi anni. Se la Juve ha più fatturato è semplicemente perché il marchio Juventus è sicuramente più diffuso del marchio Napoli, perché ha uno stadio, per una serie di motivi, per cui che significa la frase, no, con 150 milioni di euro di fatturato vincerei, cioè l'Europa dimostra oggi, Pier, anche come quello che sta avvenendo negli altri campionati, che non è detto che tu con un fatturato di un certo tipo non puoi primeggiare. Lo stesso Liverpool, che pure ha un monte ingaggi non da poco. Comunque non è una squadra che fa, credo, il fatturato che fa la Juventus, ma assolutamente no. Anche l'Atletico Madrid assolutamente no. Vabbè, l'Atletico Madrid è un'impresa secondo me ancora più clamorosa di quella del Liverpool. Le due imprese si assomigliano, quella dell'Atletico secondo me è ancora più clamorosa, perché l'Atletico ha le due squadre più forti in Europa, più forti economicamente al mondo come rivali, che sono Real e Barcellona. No, io penso che in realtà della dichiarazione giusta di De Laurentiis, che non ci sono 20 punti, non ce ne sono forse neanche 17, però alla fine io dal punto di vista del Napoli la vedo più come un rimpianto che come una cosa che dà consolazione, perché che non ci siano 17 punti tecnicamente fra queste due squadre secondo me alla fine dimostra che Conte fin qui è stato più bravo di Benitez. Certo. 8-0-0-24-0-0-24. Però fammi sembra fammi sentire la borsa, poi continuiamo a parlare. Ci sono tanti giocatori onestamente che non ne possono più, questo è il termine esatto, e che non è che i giocatori non vogliono venire alla Lazio, i giocatori se non vogliono andare alla Lazio, che è un'altra cosa, ma non perché ci sia un rapporto difficile con la società, anzi tutt'altro, perché qualcuno ha detto, per esempio, io non mi diverto più, perché qui sta diventando un problema, e immaginate pure per loro, vivere in un contesto di un certo tipo crea dei problemi. Se questi sono questi atteggiamenti sono atteggiamenti di cui si vogliono bene alla Lazio, fate voi i vostri giocatori. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. I numeri non li sopporto più, la matematica che mi perseguita. Quando sento parlare anche di cifre e di fatturati da parte di Benitez, mi viene da ridere, perché comunque quantomeno è opinabile quello che dice Benitez, che dice che la Juventus fattura 300 milioni, ma la Juventus a parte che non li fattura 300 milioni, ne potrebbe fatturare anche 500, però bisogna vedere quanto poi si investe sulla squadra. Si deve guardare il gasto netto che fa una squadra quando tu devi vendere al tuo attaccante più forte, che ha fatto il 40% delle reti della tua squadra, per potete comprare i giocatori, qualcosa si perde. Le squadre che vincono il campionato negli ultimi anni in tutte le linee importanti, del campionato importante, sono le squadre con il fatturato più alto. Che significa spendere? Non è spendere solo, è spendere e potete pagare ai tuoi giocatori un stipendio più alto. Quando tu puoi pagare un giocatore come Llorente, che aspetta 6 mesi per venire qua, un ingaggio più alto, significa che è perché il tuo fatturato globale è più alto, sempre. Il Napoli ha investito 100 milioni e penso che ha investito in un anno quello che è stato investito nei 3 anni con me nella Juventus, nonostante il fatturato più alto nostro. Quindi bisogna dividere dal fatturato agli investimenti sulla squadra. Quest'anno abbiamo investito sui 23 milioni, si è rientrati dei 23 milioni vendendo Matri, Giaccherini e Marrone. Loro ne hanno spesi più di 100 e si trovano a meno 17 in campionato, fuori dalla Champions League, fuori dall'Europa League. Per fortuna per loro stanno in finale di Coppa Italia. Significa che sono tante partite che la squadra non può mantenere questo livello, o la rossa non può mantenere questo livello. Sono molto contento con tutto lo che hanno fatto, ma ancora manca la differenza, è molto chiaro, non dico niente nuovo. Pagare un giocatore in panchina 2, 3, 4 milioni netti può farlo una squadra che ha un fatturato molto alto, e così le partite con le altre squadre che giocano oggi, diciamo, perché nessuno mi ha fatto la domanda, no, manca Tevez, sì, ma Osvaldo era in campo, Vucinic era là, o Quagliarella o Giovinco, sono giocatori che possono giocare tutte 5-6 al massimo livello. Allora, a noi sembrava una polemica un po' pretestuosa, no, Cruciani? Fastidiosa. Sì, una roba veramente, ma chi se ne frega di queste cose qua? Sì. Sono molto importanti, ovviamente, per quello che riguarda i conti delle squadre, però questi paragoni tra tu hai speso di più quest'anno, l'altro ha speso di più nei tre anni, poco senso. Investimento di 100, no 150, tu hai vinto quello, tu hai vinto quest'altro. E i soldi sono fondamentali, ovviamente. Terriboli. Terribili queste cose, no? Allora, i soldi sono fondamentali, però ci sono vari esempi che dimostrano che poi i soldi bisogna saperli spendere bene, bisogna saperli spendere in maniera oculata, bisogna saperli spendere in maniera, come dire, per comprare, ma non giocatori forti, giocatori che sono funzionali per fare una squadra. Ha ricominciato a farlo dopo un po', perché al ritorno in Serie A ha buttato un pozzo di quattrini. Ma abbiamo chiamato Marco Bellinazzo, così magari ci dà due, perché oggi è felice. Ciao, buongiorno a tutti. Felice per... perché... Cassazione dei soldi, dice Piero. Sai che De Laurentiis vuole andare in Inghilterra? Sì, l'ho appena letto. Ha detto oggi: o mi fate lo stadio nuovo o scappi in Premiership. Ma è collegato a tutta la polemica di ieri sera. Tra l'altro, pretestuosa, sei d'accordo? Guarda, è pretestuosa sul singolo anno, nel senso che ci possono essere, per fortuna, aggiungo, i miracoli sportivi. In Spagna stiamo assistendo alla cavalcata dell'Atletico Madrid, che fattura 120 milioni contro i 500 di Real e Barcellona. In Premier abbiamo il miracolo Liverpool, che con 250 milioni di fatturato si sta confrontando. Il monte salari del Liverpool, hai idea di quanto sia? Secondo me sul monte salari siamo sui 150 milioni, che è tanto più o meno quello della Juve, Juve. Pier, ma è tanto, ma largamente inferiore a quello di Manchester, Chelsea, Arsenal, forse anche Tottenham, perché Tottenham spende un sacco di soldi. Però Atletico Madrid mi sembra siamo sui 60. Sì. Giusto? Siamo sui 60 milioni, non è poca roba. 150 milioni. Però la Madrid, come diceva il professor Bellinazzo, ha preso appunti, fa 110 120 di fatturato, 120 di fatturato, il Liverpool fa 250. Certo. Cioè, il Liverpool, diciamo, è a metà strada fra Barcellona e Real da una parte e Atletico Madrid dall'altra. Sì, quello che è importante, diciamo, perché non si può più avere, come dire, la testa nella sabbia e non considerare questi elementi, ma che valgono sul lungo periodo, cioè sulla sostenibilità di certi progetti. Prendiamo appunto l'Atletico Madrid, i due campioni, i due giocatori fondamentali dell'Atletico Madrid sono Courtois, il portiere che è in prestito dal Chelsea, e Diego Costa, ed entrambi quest'estate finiranno appunto a Londra. E quindi, diciamo, mi sembra che sia una storia parallela a quella del Borussia Dortmund dell'anno scorso, anche lì giocatori, diciamo, commercializzabili per capirci meglio, e grosso modo quello che fa il Napoli. Cioè, mi sembra che la politica di questi club sia questa, non ci trovo niente di perverso in questo. Flavio Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Flavio Roma, il portiere. Flavio, sì, sì. Da Roma. Sono da Roma e sono anche un tifoso romanista. No, ma la cosa che mi veniva in mente ieri sera dopo la partita di Napoli-Juventus era questa. Rizzoli credo che sia l'arbitro che andrà ai nostri mondiali. Sì. Per cui, secondo me, ieri doveva arbitrare Juventus-Napoli. E l'hanno data a Orsato, cercando di tutelare Rizzoli sulle 200 rotte televisioni che erano presenti al San Paolo. E invece, guarda caso, il fatto più eclatante è accaduto a Sassuolo-Roma. Sì. Tanto mi segnalano che le radio romane fanno le tabelline scudetto. Fanno le tabelline scudetto? Cioè, nelle radio romane, si parla di tabelline scudetto. Cruciani, ecco. tra un po' Cruciani ci diranno che Conte ci ha fatto un favore dandoci un aiutino con Rizzoli. Questo sicuramente... ce lo diranno e ci diranno, insomma, che noi arriveremo seconda ridosso, perché chiaramente c'è stato questo. No, ma io questo... nessuno mette in dubbio, voglio dire, al di là delle legittime proteste del Sassuolo, di Francesco in particolare, a parte se la dovrebbe prendere col suo giocatore, che pare che abbia detto all'arbitro una mezza verità o comunque l'abbia lasciato nell'incertezza, nessuno mette in dubbio la vittoria della Roma di ieri a Sassuolo per quello che è successo in campo. Voglio dire, non era certamente Liverpool, diciamo, Roma, che a parte invertito, dove Globeral ci ha fatto piangere di tutto, insomma. Però a parte, diciamo la verità, Pier, diciamo, fosse stato la Juventus coinvolta nella vicenda, sarebbe venuto fuori un casino, la vicenda Rizzoli di ieri sarebbe venuto fuori un casino, o l'Inter. No, la vicenda di ieri è assolutamente, diciamo, che ci un aiutino, dai. Il modo, perché poi il rigore non c'è, è un rigore che, insomma, difficilmente si può dare, e l'arbitro aveva fatto giocare, quindi se l'arbitro, diciamo, si fosse astenuto dall'ascoltare Peruzzo, e se, oppure se l'avesse ascoltato ma gli avesse detto guarda, ho visto io, e avesse fatto giocare dopo 30 secondi, gli avremmo fatto l'applauso. Sono stati quei 4 minuti e 37 lo scandalo, diciamo. Vorrei tornare un attimo sul discorso Napoli. Dicevo prima, Giuseppe, sei d'accordo sul fatto che questo modo di gestire un club non, in questo modo di gestire un club non c'è niente di perverso? Cioè, mi sembra la strada da seguire, che viene seguita in piccolo dall'Udinese, in grande dal Napoli, e poi la Juventus cerca di fare un altro tipo di percorso, ma anche in quel caso non c'è niente di Così Napoli ha amministrato benissimo. Marco sa le cifre, è una delle squadre più virtuose da questo punto di vista, ha fatto, come dice Conte, grandi investimenti, è inutile fare i paragoni. Mi sembra che la strada sia tracciata. Adesso c'è il problema dello stadio, però è un problema che non riguarda solo il Napoli, cioè riguarda, tranne la Juventus, 18 squadre, quante diavolo sono, insomma, 19 squadre italiane, insomma. La Roma si è avviata su un percorso che secondo me alla fine sarà quello, cioè si arriverà a fare questo stadio non ai tempi magari previsti, però insomma non credo che Napoli si possa lamentare da questo punto di vista. Non capisco le lamentele di De Laurentiis, francamente. Guarda, io credo questo. Ieri sera mi sono divertito a fare un po' di conti, poi chi è curioso se li può trovare sul sito del Sole, sul mio blog Calcio e Business. Però c'è un parallelo tra i fatturati, i soldi che si danno ai giocatori, di ammortamenti, quindi quanto costa la rosa e gli investimenti fatti in questi anni. E grosso modo nei 3 anni la Juve ha investito il doppio del Napoli, insomma in cassa il doppio del Napoli, ma questo vuol dire fisiologico. Quello che si può semmai imputare alla gestione De Laurentiis, che è stata ottima sotto tanti punti di vista, è il fatto che non si è fatto molto, o comunque si è fatto troppo poco, per aumentare le altre voci di ricavi, perché altrimenti sei costretto al primo anno che ti va male, che non va in Champions, insomma, a dover cedere i campioni. Ti è accaduto con Quagliarella, Lavezzi, Cavani in questi anni. Senti, dopo il traffico mi dici quant'è il premio per il secondo posto che ieri De Laurentiis ha trattato nello spogliatoio con Reina. Gli ha detto: tu si sei fatto avanti per trattare questo premio, io lo concedo alla squadra, però tu resti. Tutti convocati. Allora, quanto viene il secondo posto? Il premio è il professor Laurenti. Diciamo, spero, come dire, per le tasche di De Laurentiis, no, e del Napoli, insomma. Ancora. No, non l'ho saputo, insomma, non l'ho saputo ancora. Avrà promesso qualche milione, insomma. Qualcosì, ma De Laurentiis è molto generoso, insomma, come sappiamo benissimo. Il problema è che Napoli ha già raggiunto i 100 milioni, diciamo, di costo della rosa tra ingaggio e personale, e siamo proprio al limite, quindi insomma o si fa lo stadio oppure diventa difficile tenere questi giocatori. Mica facile, perché io non sono nemmeno così ottimista come Giuseppe sullo stadio di Roma, in un modo o nell'altro verrà fatto, vediamo. L'altro giorno chiamo un ascoltatore, giustamente fa di progetti ne sono stati presentati tanti in questi anni a Roma, poi da lì a farlo è un'altra storia, vediamo, speriamo, no? Sì. Diciamo lo fanno, che il sindaco Marino poteva risparmiarsi, dire che in 2 anni. Ma lo fanno perché una delle ragioni d'essere di questa dirigenza americana dal giorno zero era fare lo stadio. Poi è chiaro, sì, che è una ragione d'essere anche di Toir, della conservazione, di lacciuoli burocratici, ma insomma mi sembra la priorità assoluta dal giorno zero del progetto americano della Roma. E io quello che dico sullo stadio, e che dico soprattutto ai tifosi della Roma, è che le esperienze del passato ci raccontano il fatto che lo stadio è prima di tutto un investimento. Cioè, per quanto tu puoi fare, poi c'è Belinazzo, per cui, ma di che stiamo parlando? Belinazzo, la prego, cioè l'Arsenal si è indebitato per anni nonostante il project financing per costruire lo stadio, quindi non è che lo stadio subito ti porta soldi e ti porta investimenti. No, però, nel medio periodo, diciamo che ecco, avere uno stadio funzionale ti permette di avere, diciamo, stando bassi con le stime, quei 30 milioni in più all'anno, che significa sostanzialmente come andare in Champions ogni anno. Ma poi è comunque è un asset diverso patrimoniale, tra l'altro i costi per costruire lo stadio, per tutta la parte degli interessi viene meno rispetto ai calcoli del fair play finanziario, quindi è anche incentivata la costruzione degli stadi. E io cito sempre questo numero: la Serie A perde ogni anno, avendo stadi di oltre 60 anni, 700 milioni all'anno di ricavi aggiuntivi, ricavi che potrebbe avere, che potrebbero metterla quantomeno in linea con la Bundesliga. La Premier è un'altra cosa. Amato Campobasso, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Dica. Questo qui. Dunque, prima di tutto volevo sapere perché non ci stanno i 17 punti di differenza con il Napoli. Si tratta di fortuna o forse sono stati rubati? Poi me lo dirà Pardo. Sì. Poi un'altra cosa, da Biadegrasso a Zagarolo, passando per Atalanta, Bologna, Cagliari, tutte le lettere alfabeto, tutte le squadre giocano con la Juventus la partita della vita, cacciano la scienza, tutti in modo più assoluto. Vabbè, abbiamo perso una partita con la Fiorentina, tutti vogliono battere la Juventus, ma questo mi sembra normale, no? Tutti vogliono battere i più forti. Questa, sì, questo sta nella logica delle cose. Una scienza maggiore dalla parte delle squadre che affronta la Juventus, a differenza di tutte le altre squadre. Ma, vedo questa differenza. Ma ripeto, questo è normale. Quanto ai 17 punti adesso lo dice Pardo, ma questo mi sembra normale, no Giuseppe? Giochi con i migliori, vuoi vincere. Però ha ragione l'ascoltatore quando dice la partita. No, ha ragione l'ascoltatore quando dice che chi lo dice che non ci sono 17 punti di differenza? Ah, De Laurentiis. De Laurentiis, no, lui lo attribuiva a te. No, no, io per me il campo, allora, soprattutto per me. Vabbè, in campo ieri differenza. È evidente che non c'era, ha vinto 2-0 no, il Napoli. No, ma per me esiste una enorme differenza fra il campionato, cioè sull'insieme, la ripetizione di partite, che nel lungo termine, un discorso statistico, dice sempre la verità. E 17 punti non sono 3 punti. 17 punti voglio dire, c'è una squadra migliore dell'altra, punto. Ragazzi, non vuol dire semplicemente che la Juve quest'anno, almeno fino adesso mancano 8 partite eccetera, è stata nettamente superiore a Napoli in quanto a continuità, no, in quanto a singoli, in quanto a quello che dice De Laurentiis. Vabbè, De Laurentiis, cioè, è tifoso del Napoli. Che non ci sono i 17 punti. Io lo interpreto come un rimpianto per il Napoli. Sì, assolutamente, anche se sì. Il Napoli è capace di fare saltuariamente delle grandi partite come quelle che ha fatto, come quella che ha fatto ieri sera, come quella che ha fatto nel Champions League. Vuol dire, cioè, quasi un rimprovero a Benitez. Il Napoli che non sia stata all'altezza poi nelle partite quelle. È quasi un rimprovero a Benitez, secondo appunto. Te. No, è un rimprovero a Benitez. Il mio fegato da tifoso può testimoniare, diciamo, di quante partite, insomma, siano state giocate male, con sufficienza. Io ricordo sempre Bergamo. Ricordo sempre Bergamo che Napoli è così, è una squadra molto alterna. Sai, io penso che Benitez abbia impostato, diciamo, una rivoluzione all'interno di una squadra, di una società che ha bisogno di tempo, insomma, sembra scontato dirlo, ma è così, insomma, rispetto al gioco di Mazzarri si è cambiato completamente il modo di giocare, il modo di interpretare le partite, c'è bisogno anche di costruire attorno a questo un organico, per questo ci vuole tempo, ci vogliono soldi. Sì, poi scusami Marco, io trovo anche sbagliati i paragoni a distanza di anni, cioè Mazzarri l'anno scorso aveva fatto questo, 2 anni fa aveva fatto quell'altro. Sì, lo trovo abbastanza stupido, insomma, continuare sì, a fare questo. Secondo me è stucchevole, perché ogni campionato la sua storia, che ovviamente può influenzare il rendimento della squadra. Secondo me già il Napoli di Benitez ha un vantaggio rispetto a quello di Mazzarri, cioè molto più divertente da vedere giocare, no? Assolutamente, da tifoso posso confermare. Poi è una squadra dipende, estremamente alterna. Dipende. Perché dipende? Perché non è sempre così, non è sempre così divertente, ha delle velocità di punta superiori, ha un'idea di calcio secondo me più alta rispetto a Mazzarri. Sì. Nel senso che quando l'abbiamo visto giocare bene in alcune partite ha giocato in maniera più alta, cioè proprio da un punto di vista di qualità di gioco superiore. Però ieri strepitoso, ha allargato la Juve e ha costretto la Juventus all'uno contro uno con dei giocatori che hanno grande velocità e grande talento. Però l'intensità del Napoli di Mazzarri in certe partite, insomma, io mi ricordo Napoli-Manchester City o Napoli-Chelsea, non era un brutto vedere, era una roba diversa. Poi attenzione, perché battere le piccole squadre non è soltanto un fatto di concentrazione, è anche un fatto di concentrazione, ma anche proprio un altro sport, Cioè vincere le partite con le piccole che si chiudono, ne sa qualcosa quest'anno proprio l'Inter di Mazzarri, è una disciplina diversa rispetto a giocare una grande partita con una squadra che comunque ti affronta alla pari, è proprio un altro sport, e in questo sport il Napoli deve crescere ancora molto. Nello da Bergamo, poi vi saluto tutti, vado avanti da solo per gli ultimi 10 minuti. Ciao. Nello, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo dire che innanzitutto il Napoli è stato penalizzato dagli infortuni di Zuniga, Mesto, cioè comunque pedine fondamentali per il Napoli. Poi l'ampia rotazione che ha fatto Benitez, e quindi di questo bisogna dargli atto. E penso che comunque è per il primo anno che tutti gli acquisti fatti in casa Napoli sono stati utilizzati e sono stati utili alla causa. Sì, perché sono, mediamente bravi. Giusto, con un attaccante si possa ispirare a qualcosa di veramente importante. Un altro attaccante, secondo me servirebbe magari un difensore, ma comunque mettiamoci un altro attaccante, ci sono 1000 di attaccanti nel Napoli, e abbiamo visto l'esplosione di Martins e Caleon, che Giuseppe lo diceva prima correttamente, sono davvero un valore aggiunto. Detto questo, gli infortuni ce li hanno avuti credo anche gli altri. Il Napoli, non dimentichiamo piuttosto che il Napoli non ha più avuto Hamsik, e non ha Hamsik o quello vero da un sacco di tempo. Ma vuoi sapere se sono preoccupato della rimonta della Roma? Che vuoi sapere? No, non sei preoccupato della rimonta della Roma. Io non abbiamo parlato di questa cosa, Pier. Meno 8, la Roma ci crede. Meno 8, aspetta, 11. La Roma, secondo meno me, 11. Non ha meno 8. Possibilità a meno di cose. Vediamo se vince col Parma. Cose soprannaturali. Cioè, è chiaro che poi se la Juve perde col Sassuolo o non batte il Livorno in casa lunedì, allora e la Roma fa percorso netto, allora, però insomma mi sembra ancora troppo poco. Guarda che come sai, perché non succederà, però gli scudetti si perdono non negli scontri diretti, si perdono. Chiaro che la Roma avrebbe bisogno, oltre che di un percorso netto, però mi sembra che sia ben avviata da questo punto di vista, perché non ne perde uno, comunque le vince tutte. Stai gufando? No, non sto gufando, sto facendo un discorso realistico che faccio da tempo. Cioè, nel senso che la Juventus è in affanno all'Europa League. Io dico che non ci fosse Conte, io mi preoccuperei molto. Certo, con Conte forse i tifosi della Juve possono stare più sicuri, ma è con le squadre piccole che si perdono i campionati. Ma la Juve allora forse l'ha vinto a Genova col Genoa, ma l'ha vinto a Catania, non so se l'ha vinto. Sì, quello sicuramente. 11 punti sono tanti. Roma-Parma, secondo me la Roma non se la porta da casa. E, insomma, anche ammesso che la Roma faccia un filotto, faccia 24 punti su 24, arriverebbe a 94. La Juve a 81 deve fare 13 punti in 7 partite, con Cagliari in casa, Atalanta in casa, anche se l'Atalanta sta andando benissimo, insomma Livorno, Bologna, insomma, mi sembra onestamente, non lo so, se vogliamo raccontarci questa cosa, perché ci divertiamo, perché i campionati si perdono pareggiando in casa con le squadre piccole, perdendo con partite che sembra impossibile perdere, eccetera eccetera, per cui sai, cioè, bisogna vedere la condizione fisica, è tutto ipotetico, perché la Juventus normalmente in casa non perde. Ieri Garcia, parlando del post partita di Sassuolo, mi aveva molto sorpreso dicendo che voleva la vittoria del Napoli, e che secondo me non so se era una bugia, ma insomma me lo voglio interpretare invece come un grande segno di personalità di un allenatore che vuole pensare in grande. Beh, ma certo, vuole la vittoria della Juve. La verità è che secondo me ieri alla Roma conveniva il pareggio o la vittoria della Juve. Ma secondo me la Roma non considera più il Napoli un pericolo, cioè non si guarda alle spalle, secondo me, e ha ragione. Ragazzi, vi saluto. Ciao. È stato bellissimo, ciao, non bello, bellissimo, guarda, ciao, veramente. Ciao, col nutrizionista. Ciao. Ciao. Tutti convocati. Noi abbiamo cercato di gestire la macchina al meglio, dobbiamo ancora metterla a posto, e quindi oggi sinceramente credo che sia stato il massimo che potevamo fare. Chiaro che non possiamo essere soddisfatti. Fernando credo sia terzo nel campionato piloti, e questo ci deve dare la spinta per mantenere la concentrazione sui temi che sappiamo dover migliorare su questa macchina, e quindi direi che questa è un po' la sintesi della gara di oggi. Avete pensato a uno sviluppo cadenzato nel corso della stagione? Quando ci possiamo aspettare un interessante momento di sviluppo per la macchina? Ma io credo che piuttosto che dirlo bisogna farlo, bisogna risolvere i problemi, bisogna mettere in fila tutte le cose che sappiamo esserci, quindi poche parole, bisogna avere dei fatti. Penso che po' meglio è andato in generale tutto il weekend, con una macchina un po' più competitiva, penso in tutti i settori. Abbiamo fatto dei miglioramenti la macchina, piccoli, ma tutti penso che hanno funzionato come l'atteso. Manca ancora, sicuro noi miglioriamo, anche gli altri migliorano ogni gara, quindi dobbiamo fare un step più grosso perché siamo un po' indietro. Queste due gare sicuro la prestazione non è ancora al top, dobbiamo migliorare per la prossima settimana a Bahrain. Siamo terzi nel mondiale a un punto di Hamilton e siamo lì nel gruppo dei top, quindi questa è la cosa più positiva. Prossimi giorni torneremo a parlare naturalmente di Formula 1, abbiamo sentito Domenicali e Alonso, non mi sembra ci siano grandi novità rispetto alle ultime N stagioni. Cioè la Ferrari a rincorrere dopo aver speso tanti soldi e tanto ottimismo nel corso della preparazione, si ritrova davanti una macchina praticamente imprendibile. Negli altri anni era la Red Bull, adesso è la Mercedes. Con i piccoli miglioramenti di cui parla Alonso si può arrivare, insomma, un po' più vicino alla Mercedes, magari verso la fine della stagione. La sensazione è sempre che Alonso riesca a spremere da grandissimo qual è il meglio da una macchina che, insomma, che non vale quelle che Alonso vorrebbe regalare per il compleanno. Vi ricordate quella famosa battuta che tante polemiche gli portò addosso? L'anno scorso voleva la Red Bull, quest'anno magari preferirebbe la Mercedes, invece si tiene la Ferrari che non va fortissimo. 800 24 00 24. Torno a parlare con gli ascoltatori subito. Mentre leggo messaggi, che mi sembra una situazione abbastanza strana quella che si crea il lunedì come questo, Michele, tifoso del Napoli, 17 punti di vantaggio grazie a degli arbitraggi scandalosi, senza favoritismi arbitrali il campionato sarebbe ancora apertissimo. Peccato che ieri sera il favoritismo arbitrale ce l'aveva avuto il Napoli su quel primo gol, probabilmente, ma ci sta, ce l'abbia avuto il Napoli, però quando sono il Napoli, la Roma, vabbè, abbiamo sentito anche prima, ne parlavamo, vabbè, ma la Roma, anche se ha avuto questo rigore prima date, poi tolto in maniera molto comica, vabbè, ma la Roma, vabbè, ma il Napoli, ogni tanto ci danno qualcosa. Invece c'è la Juventus che ruba sempre e l'Inter che è sempre derubata. Questi sono i due estremi e in mezzo tutto questo magma, per cui gli errori arbitrali contano il giusto, specialmente quando sono a favore. Felice, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io vorrei fare un abbraccio ad Alonso, perché io penso che ogni gara che lui fa alla fine dovrebbe mandare un po' qualcuno a quel paese, perché tutto quello che fa è solo farina del suo sacco. Sì, poi quando lo fa però gli dicono tu stai zitto, ti paghiamo, lavora, guida, non rompere le palle, perché siamo la Ferrari e non si può nessuno può permettersi di criticare la rossa, questo dicono ad Alonso. Noi però sappiamo di chi sono i meriti, sì. Quindi io invece volevo parlare delle tre squadre più importanti Felice, del campionato. Per inciso, Alonso, quanti anni sono che alla Ferrari? Sesta stagione, sì. non ricordo bene, è una mezza carriera, eh. In questa mezza carriera quello che secondo me è il pilota più forte di tutti non ha portato a casa neanche un titolo. Dica. Infatti per questo un abbraccio, sì, simbolico. Vabbè, okay. Io volevo parlare delle tre, io sono tifoso della Juve. Sì. Se io posso essere critico con la Juve, alla Juve in queste partite gli manca, tolto Tevez, l'uomo, il giocatore che salta l'uomo, perché poi che si lasci rimbalzare gli avversari addosso, come avete detto voi tante ma volte. Lei per salta l'uomo intende quello che da solo fa la giocata decisiva, come fa Tevez tutte le volte. Ieri non c'era, come sappiamo, era squalificato. Ma non solo Tevez, anche Caleon del Napoli, faccio un esempio, quello che può essere Gervinho della Roma. Beh, quindi teoricamente questi giocatori, Felice mi perdoni, sarebbero teoricamente, sarebbero Vucinic, Quagliarella, Giovinco, sono tre che potrebbero avere queste caratteristiche, quindi sono da rottamare. Ma non sono da rottamare, ma non hanno sempre quella cattiveria a tutte le partite. Allora se Vucinic gioca da Vucinic, allora è di altissimo livello. Se Vucinic, come dice qualcuno, entra in campo con le ciabatte, sì, allora lì possiamo... Con le ciabatte o no, in campo ci entra pochino. Però guardi, sì, però in teoria i giocatori che dovrebbero avere quelle caratteristiche, cioè quelli di insomma alzare il voltaggio, sono questi, quelli che dovrebbero avere la giocata, eccetera. Sì, non ce l'hanno, a parte che Conte... Nelle rotazioni è molto taccagno di minuti nei confronti di questi, cioè lui ha eletto la sua squadra, lo so. Gli altri giocano ogni tanto, e se mi permette, fossi un tifoso della Juventus, sarei preoccupato non tanto per la sconfitta di ieri sera, anzi in una partita così, con quel vantaggio in classifica, e questo è un ragionamento che doveva fare anche l'altra volta, no? Quando comunque ha rischiato parecchio con la Fiorentina, dopo aver giocato con la formazione titolare la domenica in campionato, una partita che con un vantaggio di questo tipo puoi anche insomma usare per il turnover. Ebbene, fossi un tifoso della Juventus, sarei preoccupato per la partita importante di questa settimana della Juventus, che non era né quella di ieri sera né la prossima con il Livorno, ma sarà quella con il Lione. È certo, perché perché la Juventus, il vero obiettivo in questo momento della Juventus deve essere l'Europa, che non è la Champions League, ma ti dà una dimensione diversa, e anche per Conte dovrebbe essere così. Pienamente d'accordo. Bene. E poi per quello che riguarda le altre due squadre, che sono Roma e Napoli, sì, io penso che se la Roma fosse stata allenata da Garcia anche negli ultimi due anni, questa sarebbe stata una squadra più completa, perché secondo me forse anche quando l'uomo è passato per caso, questo può essere, però anche qui manca la controprova, poi non c'era insomma sì, in linea di massima sì, perché Garcia è nettamente migliore di tutti quelli che l'hanno preceduto nelle ultime stagioni. È anche vero che ha qualche altro giocatore, beh, adesso Strootman è fuori, però è stato un giocatore importante, Maicon è stato un giocatore importante, e ce ne sono altri che sono cresciuti. Uno che è rientrato importantissimo, giocatore importante in questo momento della Roma, è quello che la butta dentro tutte le domeniche, cioè Mattia Destro, che a me piace da impazzire. Alessandro, provincia di Torino. Buongiorno. Buongiorno. Un saluto molto. Vi faccio i complimenti. Grazie. E volevo parlare del Parma, che sì, secondo me sta iniziando la sua crisi e sarà risucchiato dalle altre squadre per quanto riguarda l'Europa League. Perché? Secondo me è così. Perché? Ma sono i classici cali, come esempio il Verona, abbiamo visto il Torino. Appena arriva in un punto, poi van giù. Non lo so, io sono dell'idea che non sarà semplicissimo per la Roma il recupero di mercoledì, che fin dal giorno del rinvio si dà per scontato, ci sono tre punti che si danno per scontati. Non sono così convinto che sarà per la Roma una passeggiata. Io non vedo grandi segnali di resa a questi livelli da parte del Parma. Poi io credo anche che a quest'ora della stagione ci siano delle squadre come il Parma, come di questo livello, no? Parma, il Verona, il Torino, ora vediamo l'Atalanta che è incredibile. L'Atalanta è in questo momento il vero miracolo stagionale, perché il Parma è una squadra che ha qualità diversa. Ebbene, ci sono queste squadre che magari non giocano più con la necessaria convinzione, quindi basta una sconfitta, una partita storta per sgonfiarle. Non credo però sia il caso del Parma, anche perché io penso che tra tutte queste il Parma sia l'unica che davvero vorrebbe fortissimamente fare l'Europa League. Massimo, okay. Salerno, buongiorno. No, forse Massimo Monza? Non ho, Massi, io ho scritto Salerno, se poi chiama da Monza è uguale. Ah, eh? So, sì, sono da Monza. Buongiorno. Bene, a tutti. Ciao. No, volevo dire velocemente, io sono interista, ma volevo dire la mia sul Napoli, su Benitez soprattutto, perché l'abbiamo avuto anche noi all'Inter. Quando voi dite, tutti dite, che è una squadra da Coppa, ma io ho provato un pochettino a capire il motivo. Perché secondo me Napoli, Benitez, non sa dare quella che secondo me è la cosa più importante, cioè la mentalità vincente, la mentalità sportiva, la cattiveria sportiva vincente. Quindi quando tu vai a giocare fuori casa, le gambe ti tremano un po'. Quando giochi in casa davanti al tuo pubblico, 80.000, 60.000 che ti incitano, le motivazioni vengono da sole. Quindi però Massimo, allora come mai ha vinto una Champions League con il Liverpool, ha vinto l'Europa League qualche mese fa? Cioè meno, è campione in carica? Aspetta, spiego più o meno dell'Europa League, insomma la scena un attimo la fa, ha vinto anche Di Matteo la Champions. Però se tu perdi o pareggi fuori casa, ok, in Europa, e poi vinci in casa, recuperi e passi. Ma i punti che perdi fuori casa nei campionati non li recuperi più anche se vinci in casa, perché il Napoli è grande con le grandi, ma soprattutto in casa, perché se guardiamo i risultati contro le grandi fuori casa anche quest'anno, sia in campionato che in Europa. Ma secondo te può essere una cosa, può essere un difetto strutturale di squadre che comunque hanno una fase offensiva molto pronunciata e magari invece hanno minore attenzione? Secondo me non è un motivatore, Benitez. Un motivatore per andare a giocare fuori casa con la stessa mentalità che hai per giocare in casa. Io parlo soprattutto nei campionati italiani, Io l'ho visto nell'Inter, lo vedo nel Napoli adesso. Fuori casa il Napoli va a giocare come una squadretta che non è da Napoli, guarda, giocatori che ha. Massimo, non lo so, io per quanto riguarda l'Inter sospenderei giudizio, cioè ingiudicabile Benitez per quanto riguarda quei pochi mesi all'Inter, nei quali comunque un trofeo l'aveva pure portato a casa. Sul fatto che non sia un motivatore io non credo, magari ha altri così difetti nella gestione del gruppo, perché è molto più duro di quanto non possa sembrare, e spesso nelle sue squadre un po' di spaccature nello spogliatoio ci sono. Giovanni Salerno, stavolta siamo a Salerno davvero? Mi conferma? In questo momento mi sono spostato, sono in provincia di Napoli. Però è comunque lì, cioè non sì, è a Monza. Siamo lì. Non è a Monza, va bene. No, allora complimenti a voi per la trasmissione. Io non condivido le critiche a Benitez e questa soffa del Napoli, dei rimpianti. Io sono soddisfatto del Napoli degli ultimi anni, quindi del Napoli di Mazzarri e anche del Napoli di Benitez. Beh, ha ragione. ragione. Secondo me i valori sono quelli lì, la Juve è la Juve dei record, sì. La Roma è una squadra molto forte che ha fatto un bellissimo campionato, il Napoli giustamente al terzo posto, sì, sono, e io sono d'accordo. Sono soddisfatto soprattutto della campagna acquisti del Napoli, perché non ci sono solo Caglione e Mertens, ma anche i nuovi ingressi, Goulam e Riche, si stanno integrando molto bene. Sì, molti tifosi del Napoli, ma io condivido quanto lei dice, fossi un tifoso del Napoli da pensare anche così. Poi ci sono quelli che dicono, ma come? L'anno scorso stavamo ad inseguire la Juventus, adesso stiamo ad inseguire anche la Roma, i soldi spesi sono tanti, dov'è l'errore? Magari torniamo a parlarne domani, che dite? Adesso chiudiamo. Franco Petrini, autore di questo programma, Pietro Lacorte in regia, ciao a tutti.